Un'esposizione veramente innovativa. Noi veniamo dopo un'esposizione che si aprirà fra pochi giorni, che è quella di Shanghai, che sarà forse l'ultima delle grandi esposizioni monumentali che riprendono la cultura dell'Expo del XVIII e XIX secolo. Un po' retro, assolutamente. Anche se la Cina può permettersi ovviamente di rappresentarsi al mondo con quelli che sono gli schemi del passato, cioè le grandi monumenti, la grande forza del paese che si presenta davanti agli altri. Milano vuole cambiare totalmente paradigma e infatti progetta un'esposizione veramente leggera, dal light touch noi diciamo, molto immateriale e molto legata a una cultura che è più quella del paesaggio e della sostenibilità, con molta attenzione a quello che sono gli spazi aperti, gli spazi pubblici, la qualità appunto del paesaggio, tentando di far sì che al centro dell'esposizione non siano i monumenti ma sia il tema che è nutrire il pianeta e energia per la vita, quindi un tema forte diciamo per tutte le popolazioni del mondo. Quindi concretamente che tipo di strutture vedremo? Strutture verticali, sottili? No, in realtà si tratterà di un grande giardino botanico planetario in cui saranno riprodotti i climi di tutto il mondo, nei quali si potrà vedere come l'uomo ha interagito con la natura per produrre cibo, quindi pochissimo edificato e molto spazio aperto, molto spazio coltivato, molto spazio dedicato proprio a questa interazione fra uomo e natura. Addirittura tutto il sito è contorniato da un canale navigabile, un canale di acqua vera che portiamo dal Ticino con un'opera faraonica di 30 km di canali che portiamo per dimostrare come il rapporto fra l'acqua e il suolo poi produce quello che è il cibo che tutti mangiamo. Quindi una completa trasfigurazione della Milano cementificata. Sì, direi che proprio in questo senso può andare verso un nuovo modello anche per la città di Milano, perché Milano, pochi lo sanno, è il più grande comune agricolo d'Italia, con un parco agricolo immenso che la circonda, e quindi l'idea è quella di rivalorizzare alcune tradizioni padane proprio, che sono quelle del rapporto fra luogo del consumo e luogo della produzione del cibo, che Milano ha nella sua storia e che pochi conoscono. Stiamo parlando di una superficie ampia quanto più o meno? Un milione di metri quadrati. E gli stand come saranno posizionati? C'è già un'idea? Sì, su due assi principali vengono sviluppati, diciamo così, i nostri lotti dei paesi, con una situazione veramente innovativa, ovvero tutti i paesi sono lungo un unico percorso e a tutti i paesi viene data la stessa dignità di partecipazione, con un affaccio su questo asse principale che noi chiamiamo il decumano, perché è stata impostata proprio una griglia, che è quella tipica delle città di fondazione romana, ortogonale, lungo la quale vengono disposti tutti i paesi. Quindi una passeggiata diciamo in questo momento. Un chilometro e mezzo di passeggiata dove ogni 20 metri incontro l'affaccio di un paese, che poi vi si sviluppa con lotti di grandezze diverse, dai 400 metri più piccoli fino ai 6.000 metri più grandi. Si parla di ritardi per l'Expo 2015, da un punto di vista di progettazione come siamo messi? Assolutamente, quando si parla di ritardi si fa riferimento a quell'anno in cui la politica ha preso il suo tempo per trovare un equilibrio di governance. In realtà l'esposizione viene registrata domani, cioè il 1° maggio si registra l'esposizione universale, e il BIE questi tempi dà, quindi sui tempi del BIE non siamo in ritardo. La vera domanda è se un paese come l'Italia, con le pratiche, i processi anche autorizzativi e burocratici che ha, riesce in 5 anni, come posto a tutti i paesi, come condizione, a realizzare un così grande evento. Fiducioso? Sì, assolutamente.